Appuntamento del venerdì sera di Hard and Heavy, quello live in compagnia della voce di Marco Gravelli. Vi do il benvenuto. Siete su Rock FM, il nostro sponsor è Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Sito internet www.mariposadischi.it. Il saluto e ringraziamento come sempre a Simone, il mio personalissimo autore, che ringrazio anche per quest'oggi, autore che ci permette di proporvi il doppio spazio live, la prima mezz'ora Van Halen con l'album Right Here Right Now, l'unico CD live che hanno inciso, e poi nella seconda parte per l'heavy metal avremo modo di ascoltare e proporvi il live album degli Anvil. Poi ricordo di seguire lo spazio che segue, quello di Claudia, dalle 21 alle 23. Claudia effettuerà il gioco che permetterà ad uno di voi di andare a cena lunedì prossimo, tutto spesato, in un ottimo ristorante qua a Milano, insieme a Taria, l'ex cantante dei Nightwish, in promozione lunedì proprio qua a Milano. E il modo di vincere, eccetera, il concorso, il giochino, dopo, con Claudia nel suo spazio. Partiamo comunque con l'album Right Here Right Now, primo e unico lavoro dal vivo ufficiale, a parte i vari bootleg, uscito nel 1993. Arrivò al numero 5 in America e 24 in Inghilterra. Si tratta di un doppio CD con un totale di ben 24 tracce, una delle quali è tratta dalla discografia solista di Sammy Hagar, un'altra è una cover degli U, poi se avete la versione giapponese vi è addirittura un altro bonus CD con altri due brani in più. Il tutto è stato registrato dal vivo nel tour di supporto dell'album intitolato For Unlawful Carnal Knowledge, uscito due anni prima di questo live. Il titolo deriva proprio dal singolo di quell'album che era Right Now. La formazione: Sammy Hagar voce, Edward Van Halen chitarra e tastiere, Michael Anthony basso, Alex Van Halen batteria. Il primo brano, Pound Cake. versione originale è sull'album dal titolo For Unlawful Carnal Knowledge. Questa è Pound Cake, motivo che apriva questo concerto, perlomeno il CD Right Here Right Now, l'unico album live ufficiale della formazione dei Van Halen. Gruppo che è stato pluripremiato soprattutto in America con dischi d'oro, 500 milioni di copie vendute, dischi di platino, oltre 1 milione di copie vendute, dischi di diamante. È una certificazione molto rara, viene data agli album che in America superano i 10 milioni di copie vendute, e loro sono riusciti a ottenere anche quello. Creatori della band sono il celebre bravissimo chitarrista Eddie Van Halen e suo fratello il batterista Alex. Entrambi sono di origine olandese, si sono trasferiti in America alla fine degli anni 70 quando la loro famiglia decise di emigrare. In America crearono i Van Halen, completando la formazione nel 1974 con l'ingresso di Michael Anthony al basso e soprattutto con David Lee Roth alla voce. C'è da dire che il primo vero nome della formazione fu Mammoth, ma a causa di una omonimia con un'altra band fu cambiato presto nell'attuale nome che poi ha sempre contraddistinto negli anni la formazione, cioè quello di Van Halen. Primo album 1978, in quell'album vi era questo brano, Ain't Talking About Love. Il lavoro si intitolava Van Halen, poi arriveremo alla storia proprio di quel lavoro e noi lo ascoltiamo. Ain't Talking About Love, Van Halen dal vivo. Disease. There you got all. Ain't Talking About Love. Siete all'ascolto di Arden Davy Live. Venerdì sera solo proposte live ufficiali. Van Halen dall'album Right Here Right Now. Questa era Ain't Talking About Love. A scoprire la band dall'underground fu un certo Gene Simmons dei Kiss, proprio lui, bravo. E grazie a lui ottennero anche il contratto con la Warner, che ne pubblicherà tutti gli album in studio, arrivando così all'album d'esordio nel 1978, registrato in soli 18 giorni. Il successo fu immediato, numero 19 negli States, numero 34 in Inghilterra. Ed inoltre Eddie Van Halen fu inserito tra i migliori chitarristi dell'epoca, anche grazie al suo stile innovativo per il periodo nel suonare appunto la chitarra, e fu votato come miglior chitarrista rock dell'anno per il prestigioso e celebre magazine Guitar Player. Questo accadrà in futuro per altre 4 volte. Il successo crebbe sempre di più con i lavori successivi, quali Van Halen 2 del 1979, Women and Children First del 1980 e Fair Warning del 1981. Altro brano che andiamo a proporvi si intitola Why Can This Be Love? La versione originale in studio si trova nell'album 5150. Oh, Erano le note di Why Can't This Be Love per la formazione dei Van Halen. Abbiamo citato gli album dal secondo al quarto, cioè Fair Warning. Ebbene, questi tre album in America si aggirarono intorno alla quinta posizione per migliorare sempre di più con Diver Down del 1982. Nell'83, a causa di dissapori con il produttore, la band decide di costruire dei propri studi di registrazione. Li chiamerà 5150 Studios e nei quali incidono il loro album di successo 1984, che contiene la famosissima Jump, singolo pluripremiato. L'album li porta al numero 2 delle classifiche USA e numero 15 in Inghilterra. Nel momento del massimo successo, 1985, arriva l'improvviso abbandono del cantante David Lee Roth. Il suo posto fu preso nello stesso anno dall'altrettanto famoso Sammy Hagar, proveniente dai Montrose. Si apre così una seconda fase che comincia nell'86 con l'album 5150, ha preso il nome appunto dei loro studi. Il risultato è addirittura superiore al passato. In effetti, per la prima volta nella loro storia arrivano al primo posto in America e questa posizione la raggiungeranno con tutti gli album in studio successivi, tranne che con l'ultimo, che si intitolerà Van Halen 3, e poi ne parleremo. Andiamo a proporre, dopo Why Can This Be Love, un altro brano. Anche questo brano fa parte della versione originale in studio del lavoro 5150, motivo che porta il titolo di Best of Both Worlds, Van Halen. Yeah. Tutti gli applausi vanno per Sammy Hagar voce, Edward Van Halen chitarra, tastiera e Michael Anthony basso, Alex Van Halen batteria. Abbiamo già ascoltato brani quali Pancake, In Talking About Love, Why Can This Be Love, questa era Best of Both Worlds. E arriviamo all'ultima parte della storia della formazione in questione e poi avremo modo anche di ascoltare l'ultima traccia per questo doppio CD che comunque, ripeto, ne contiene ben 24, 26 invece nella versione giapponese. Dopo la pubblicazione del lavoro For Unlawful Carnal Knowledge arriva finalmente il loro primo e unico album dal vivo, questo che stiamo proponendo. Segue poi un altro lavoro in studio, Balance, e quindi nel 1996 c'è da segnalare la fuoriuscita di Sammy Hagar che si dedica alla carriera solista. Occorreranno 2 anni alla band per trovare il sostituto. Si tratta del cantante Gary Cherone, proveniente dagli Extreme. Con lui registrano un nuovo album, ossia Van Halen 3, non particolarmente apprezzato dai fan, ma che comunque riuscì a raggiungere il posto numero 4 delle classifiche americane. E poco dopo però la band si scioglie. In occasione del Best Of del 2004, le 3 tracce nuove vedevano di nuovo la voce Sammy Hagar e con lui si ha la vera e propria reunion, alla quale segue un intenso tour mondiale. Da segnalare, lo scorso anno, l'allontanamento dello storico bassista Michael Anthony. Il suo posto è stato preso da Volkan Van Halen, che è il figlio di Ed Van Halen. Giovanissimo, ma coloro che le hanno visti dal vivo in questo periodo in America hanno detto bravissimo. In effetti quest'anno c'è stata la reunion di nuovo ufficiale con la line-up, la prima, quella con alla voce David Lee Roth. E alla fine del mese di settembre di quest'anno hanno cominciato un tour americano. E vedremo se l'anno prossimo con i festival estivi potranno approdare in America. Ebbene, in Europa volevo dire, in America ci sono già in questo periodo. Arriviamo quindi alla chiusura dell'ascolto, dell'estratto da questo Right Here Right Now. Non poteva mancare questo che è il loro brano più famoso della storia, ovvero sia Jump. We'll be right back. dopo la prima parte dedicata al mondo dell'hard rock con Van Halen, protagonisti della seconda parte di Hard and Heavy Live del venerdì. Abbiamo questa band che arriva dal Canada, esattamente da Toronto, si chiamano Anvil, con il loro album dal titolo Live in Concert Past and Present, uscito nel 1989 ed è stato anche il loro primo unico album dal vivo. Si compone di 11 tracce, oggi ve lo propongo da il mio vinile, 11 tracce registrate al The Waters Club di San Pedro, California. La maggior parte dei brani sono tratti dall'album Metal on Metal e questo live è uscito dopo 5 album in studio. La lineup dell'epoca era composta da Steve Kudlow, detto e soprannominato Lips, voce e chitarra, Dave Ellison, seconda chitarra che lascerà il gruppo dopo questo live album, Ian Dickinson al basso e Rob Reiner alla batteria. Il brano che andiamo a proporre, il primo, è quello che apriva anche il concerto. La versione originale in studio era presente in Strength of Steel. Il brano si intitola Concrete Jungle. Sono gli Anvil. Concrete Jungle. Con questo brano si apriva quel live, Past and Present Live in Concert, per la formazione degli Anvil che stiamo proponendo. Ricordo, l'album è uscito nel 1989, primo della produzione, primo anche unico live registrato proprio da questa formazione canadese. Da segnalare che la band, come vi dicevo prima, è nata in quella di Toronto, ha riscosso un buon successo nei primi anni 80. Il primo nucleo del gruppo però risale addirittura al 1973, quando si chiamavano Lips. Lips è anche il soprannome del leader, voce chitarrista Steve Kadlov. I fondatori sono stati proprio lui e il batterista Rob Reiner. È nel 1977 che, a causa però di omonimie con un'altra band, guarda caso queste cose le stiamo segnalando da tempo, molti gruppi partono con un nome e poi lo devono cambiare, cambiano comunque anche loro il moniker a favore dell'attuale Anvil, che in italiano, ricordo, significa incudine, ed è infatti l'incudine il loro simbolo. È presente il loro logo, marchio di fabbrica, praticamente come Eddie per gli Iron Maiden. Quindi è presente su tutte le loro copertine tranne in due album. Loro ne hanno pubblicati 13 di lavori, quindi è presente in ben 11 album. L'esordio risale al 1981, l'album si intitolava Hard and Heavy, album che era già uscito con il nome di Lips, poi completamente ristampato, che riscosse ottimi responsi e che si segnalò anche per i testi a sfondo sessuale. Altro brano che andiamo a proporre si intitola Forgetting Fire, versione originale la trovate sul loro terzo album, che si intitolava proprio Forget in Fire. I'm gonna play a title track right now. This is from our third album, yeah. Forge in Fire! Mentally corrupt or, well, are you? motivo che dava il titolo all'album stesso, quello in studio, Forged in Fire, per la formazione canadese degli Anvil. Ripeto che sono loro i protagonisti questa sera della seconda parte, quella più metal per quanto concerne il nostro appuntamento del venerdì, ovvero sia Hard and Heavy versione live. Continuiamo e lo facciamo con la storia naturalmente della band, che prosegue segnalando il fatto che il secondo album, Metal on Metal, confermò il successo dell'esordio. Ricordo che il primo si intitolava proprio come il nome del nostro programma, Hard and Heavy. Quell'album, Metal on Metal, gli permise alla band di partecipare addirittura al Monsters of Rock di Castle Donington nel 1982. Il terzo album, questo che abbiamo citato, Forged in Fire, è del 1983. Considerato da molti, insieme a Metal on Metal, il capolavoro del gruppo, gli valse un tour di spalla insieme agli Whitesnake. L'etichetta questa volta cambiò rispetto alla precedente. La prima etichetta era, se non sbaglio, la Attic Records. Ebbene, la nuova etichetta era la celebre Metal Blade Records per il mercato americano. Per il mercato invece europeo vi era l'olandese Roadrunner Records, che pubblicò questo lavoro e pubblicò praticamente i due successivi album in studio e anche in live che stiamo ascoltando. Altro brano che andiamo a proporre da questo lavoro, motivo intitolato Jackhammer. La versione originale si trova anche questa su Metal on Metal. Il motivo è appunto Jackhammer. Vi avevo annunciato Jack Hammer, ogni tanto troviamo anche qualche errore, questa volta non mio, di solito sono io che sbaglio, ma questa volta errore sulla copertina del disco. Era segnalato appunto il motivo Jack Hammer come traccia numero, addirittura la numero 2, invece troviamo che la traccia è la numero 1. E vabbè, cose che cambiano, che capitano. Abbiamo ascoltato quindi il brano che dava il titolo all'omonimo lavoro, ovvero sia l'album intitolato Metal on Metal. Continuiamo nella nostra presentazione della storia di questa formazione, la storia della band degli Anvil, una band che a livello proprio di line-up rimane immutata fino al 1991, anno nel quale esce Worth the Wait, che vede il cambio del secondo chitarrista. Il nuovo entrato è Sebastian Marino, che suonerà negli Anvil per un solo album, dato che poi entrerà a far parte degli Overkill. Viene quindi scelto un altro chitarrista, si tratta di Ivan Hard, con il quale registreranno tutti gli album successivi. abbiamo recuperato Jack Hammer, era in Midley con March of the Crabs, motivo che ci permette di concludere il nostro spazio da questo Past and Present Live degli Anvil, uscito nel 1989. Ricordiamo che la band è ancora attiva anche se se n'è andato il chitarrista Ivan Hard. Il gruppo è rimasto a tre elementi con Lips voce chitarra, Rob Reiner appunto alla batteria e Glenn Guilfoyle al basso, quest'ultimo in formazione dal 1996. Il loro ultimo lavoro, il tredicesimo, l'hanno pubblicato lo scorso anno ed è disponibile tramite un'autoproduzione, quindi non hanno più contratto con una major, lo si può acquistare tramite il loro sito, si intitola This is 13, tredicesimo album, 13 le tracce che compongono questo lavoro. Abbiamo terminato, quindi ricordo che tutti gli appuntamenti di Arden Davis, se perdete qualcosa li potete riascoltare, ma proprio tutti, sul nostro sito www.radiorockfm.com, cliccate nella home page su programmi in archivio e trovate Arden Davis. Arden Davis offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Ringrazio come sempre Simone che ha preparato tutta la tracklist e le note biografiche della band, voi che mi avete seguito sino a questo punto. Rimanete in ascolto perché arriva Claudia, c'è l'opportunità di vincere quindi questa cena con la bellissima, affascinante Tarja Turunen il prossimo lunedì in serata proprio qua a Milano. Per vincere seguite il programma di Claudia e vi spiegherà cosa fare, come rispondere alla domanda. Beh, la risposta no, la darete voi naturalmente. Io vi ringrazio, vi auguro un buon weekend e una risentirci al prossimo lunedì, sempre su Rock FM, insieme con un nuovo appuntamento dalle 20 alle 21 con Arden Davis.